Ben ritrovati come sempre ad una nuova puntata di Rock Legends, a microfono come sempre il vostro Jean-Luc, ancora ospiti da Parma, ci è venuta a trovare una formazione molto interessante che ci presenterà il loro disco. A voi le presentazioni, ragazzi. Ciao a tutti, siamo Elena Sbedrem, io sono Nicola, chitarra e cori. Ciao, io sono Luca e suono la batteria. Io sono Carlo Alberto, chitarra ritmica. Salutiamo anche Jacopo e Christian che abbiamo lasciato a casa per impegni. Rispettivamente basso e voce. E con Elena Sbedrem, una prima parte in cui esploreremo alcune grandi hard rock band degli anni 70, iniziando dagli Uriah Heep, che ci siamo ascoltati dal disco Demons and Wizards del 1972 con Traveling in Time. Formazione attiva da più di 40 anni che ha realizzato un sound potente, complesso, ma allo stesso tempo melodico di grande impatto. Che ne pensate? Ma sicuramente gli Uriah Heep fanno parte di parte di quelle band degli anni 70 che hanno fatto un po' il background per una musica che a noi è lievemente più vicina, più che altro come anni. Siamo come annate, siamo tutti degli anni 80 e quindi abbiamo ascoltato prevalentemente un certo tipo di musica degli anni 90 e per noi sono fondamentali per l'apporto che hanno dato a band come, non so, ad esempio Soundgarden e tutta quella parte, diciamo, di grunge un pochettino più costruito, quello che non era, diciamo, solamente Nirvana. Diciamo che è questo che ci rimane molto, oltre alle atmosfere con grandissime dinamiche e voglia di sperimentare. Elena Sbedrem sono assieme dal 2003, una cronistoria della band, e perché avete deciso di chiamarvi così? Storia abbastanza lunga, cerchiamo di riassumerla. Diciamo che il progetto Elena Sbedrem parte dal 2003, con vari cambi anche di formazione, tipologie di progetto. Siamo arrivati a una formazione attuale appunto dal 2007-2008. Luca è l'ultimo arrivato. È l'ultimo arrivato. Che è quello che pagherà da bere. È quello che paga da bere. E appunto sì, abbiamo portato avanti appunto sempre un'idea di progetto proprio, musica propria, vari demo, un EP prodotto dalla Self, che era Self Attack of the Following Facts, e nel 2010 un album completo che è Memo, Love Chronicles. Ancora musica e continuiamo con gli UFO, formazione hard rock inizialmente dedita a uno space rock blues. Con l'arrivo del biondo chitarrista teutonico Michael Schenker, realizza uno sound diretto che farà la loro fortuna fino ai nostri giorni. Dal disco Force It del 1975, il brano Love Last Love. Real Dicevamo band attiva ancora oggi, progenitrice di alcune formazioni odierne. Che ne pensate? Ma ti dico che avrei dovuto vederli in un'esibizione non troppo lontana, 6 o 7 anni fa, del Gods of Metal. Mm-hmm. E ti dico avrei dovuto vederli perché al momento della loro esibizione è arrivato il famigerato nuvolone che ormai contraddistingue tutti i festival estivi. Quindi grandine a più non posso, tetto del palco squarciato. Quindi loro alla fine sono rimasti nei camerini e io invece sono rimasto sotto l'acqua a prenderla tutta. No, come... quindi me li sono persi. Ma magari si sono fatti neanche una bevuta, ma conoscendoli. Probabile. Mentre io mi prendevo l'acqua. Ma come tutte le band degli anni 70 rock, di impronta rock, magari queste sono arrivate meno in Italia. Sono più per appassionati. Da noi bisogna nominare sempre i soliti Led Zeppelin, Black Sabbath, sono sempre quelli. Ma non sono andati in Italia, voglio dire loro. Anzi, infatti, suonano ogni tanto, vengono. Infatti sarebbero quegli spettacoli e quelle band da seguire, perché in realtà molti embrioni appunto di queste band si risentono in altre cose più moderne. Ma soprattutto... la meno su un fatto molto tecnico, anche se... però se ho via libera posso... la qualità con cui venivano registrate queste band dovrebbe far capire molte cose a produttori attuali, cioè la qualità del suono e non tanto quanto viene sparato e compresso nei dischi moderni. Questo, il fatto di conservare le dinamiche, è una cosa che anche noi nel nostro piccolo cerchiamo lievemente di conservare, cioè nel senso la dinamica e la qualità del suono, perché quello che suona molto alto suona bene a tutti, sì, ma non sono suoni buoni. Vostre esibizioni, come sono andate, quali le più importanti in termini di esperienze e le impressioni che avete raccolto al pubblico alla fine dei live? So che avete avuto la possibilità di suonare anche all'Heineken Jamming Festival. Beh, sicuramente a oggi è l'esperienza più bella che abbiamo fatto. Credo che Nicola possa darmi ragione. Sì, quella sicuramente. È stata veramente una giornata piena di emozioni, suonare insieme ad artisti di calibro di Pearl Jam, Scancanensi, Ben Harper... ti fa anche in un qualche modo un po' sognare, un po' ti rendi conto che riesci a portare la tua musica al di fuori della tua città, fortunatamente. Sì, ed è sicuramente come esperienza la migliore. Poi ci è capitato di dividere il palco con altre band, non so, Sky Edwards, dei Morcheeba. Ci sono capitate occasioni a Rezzophonic, magari in tema più italiano. E anche in qualche piccolo club, linea 77, insomma è stata una bella... sono stati dei bei tour, dei bei giri per l'Italia. Però sì, come l'Heineken Jamming Festival adesso ci lavoriamo, cerchiamo di trovare altri contesti simili. Il commento che va per la maggiore è: avete suonato forte. Avete suonato forte, sì. Concludiamo questa prima parte con i Thin Lizzy, la formazione anglo-irlandese guidata dal carismatico bassista Phil Lynott, dal disco Live and Dangerous del 1978, con una trascinante versione del brano di Bob Seger, Rosalie. A fra poco per la seconda. This is what we're gonna try and get you moving on this one. It's a number recorded by Bob Seger, a number called Rosalie.